Come detto prima, andiamo a parlare un po' di cosa è successo nelle ultime settimane a Milano, nella fattispecie di case popolari e della sentenza Robin Hood, e quindi andremo a parlare con un'atleta compagna di Giambellino, non solo di questo ma anche dell'ardita femminile. Ma rimanendo sul tema case, volevamo anche dire che insomma negli ultimi 10 giorni c'è stata una sequela di sgomberi in Corvetto. Il messaggio è abbastanza chiaro ed evidente che in Corvetto le forze dell'ordine, la questura e l'ALER non hanno più voglia che i compagni attraversino i compagni e le compagne attraversino quel quartiere che ormai è da 10 anni. È un quartiere, scusate, dove da 10 anni ci sono occupazioni, si prova a creare una socialità differente da quella che ci propina il sistema ogni giorno. Quindi ci sono stati 3 sgomberi, uno 2 settimane, cioè 2 mercoledì fa, e questo mercoledì invece ce ne sono stati 2 insieme. Chiari segnali, i compagni e le compagne devono essere cacciati dai quartieri popolari. E ora invece parliamo con una compagna, appunto, dell'ardita Giambellino e del loro progetto, sia di sport popolare e non solo. Ciao, ci senti? Vi sento. Ciao, grazie, benvenuta a Radio Tagadà. Allora, niente, iniziamo subito dallo sport popolare, che almeno è una cosa che perlomeno in Giambellino a quanto pare va bene, continua a proseguire. Quindi volevamo subito chiederti come e quando nasce l'ardita Giambellino, ma soprattutto come e quando nasce l'ardita Giambellino femminile ed il rapporto che si è instaurato con il quartiere. Allora, diciamo che la squadra femminile fa il suo debutto a fine 2018, ma con una sola partita, e quindi in realtà torna più attiva poi a partire, diciamo, dal 2019. Noi in realtà preferiamo parlare di Ardita Giambellino come un'entità unica, cioè con una sua componente femminile e con una sua componente maschile. Questo perché una delle prerogative dell'Ardita proprio alla sua nascita, quindi quasi un po' un suo segno distintivo, era quello già ai tempi di avere una squadra mista. Quindi l'Ardita Giambellino come squadra, come entità unica, nasce nel 2014, più o meno negli stessi mesi in cui in Giambellino nasceva il comitato abitanti, e infatti le due cose sono poi strettamente legate. Visto che però il comitato non si proponeva di lottare solo per la casa, ma riguardava il fatto proprio di abitare, di vivere un quartiere in tutti i suoi modi, sembrava anche naturale portare lì una delle nostre passioni, quindi portare lì anche il calcio. Vengono scelti insieme il nome, i colori, il simbolo dell'Ouroboro, che infatti era lo stesso del comitato, che diciamo ha insomma un po' 2 ragioni, una più generale, storica, che si rifà a quella parte rivoluzionaria dell'esperienza di Fiume, e una ragione invece magari più nostra, più intima, che ci ricorda il nostro amico Guccio, che è un compagno che è morto nel febbraio del 2014. E diciamo che nel tempo appunto l'ardita è sempre stata legata alle iniziative, ai momenti di lotta, ma anche ai momenti di socialità del comitato fino agli arresti del 2018, e poi è sempre stata legata ai momenti di lotta nella città di Milano, insieme alle altre squadre, insieme ai collettivi di sport popolare. L'ardita insieme al comitato diciamo erano diventati un po' un punto di riferimento per il quartiere. Poi dopo gli arresti e dopo il Covid, adesso pian pianino stiamo provando a ricostruire quella rete di socialità e di solidarietà che vogliamo per il nostro quartiere, per la nostra città. A questo proposito, se si può, faremo un salutino a una piccola delegazione di ardite che oggi è in corteo a Roma con la marea transfemminista. Sì, sì, a voglia, si può. Riguardo le iniziative, ci sono state un paio di iniziative ultimamente, una in un pub, ora non mi ricordo quale, comunque in Conizugna, sì. E sabato scorso c'è stata anche l'iniziativa in Baronata, se vuoi farci un piccolo report, insomma, di come sono andate queste iniziative di socialità dell'ardita. Allora, Abbiamo fatto una prima serata di tesseramenti per la tifoseria a Linea Retta, che è un bar con il quale abbiamo stretto un rapporto, che insomma che ci fa un po' da sponsor e ci sostiene nella nostra impresa sportiva. E poi sabato scorso abbiamo avuto un momento bellissimo di festa insieme in Baronata. E diciamo che appunto se sul campo forse non siamo proprio le migliori, ecco, fuori dal campo, dietro al bancone, a fare DJ set o sotto cassa, cioè non ci batte proprio nessuno. E quindi appunto sono stati organizzati questi due eventi per raccogliere i fondi che sono necessari per sostenere le spese che altissime e che dobbiamo affrontare per praticare questo sport in autonomia. Purtroppo non è accettabile, non ci stancheremo mai di dirlo, dover pagare centinaia di euro all'ora per un campo solo perché è privato, così come dover pagare annualmente una visita medica che dovrebbe essere a carico del sistema sanitario, in generale dover stare dentro alle logiche dei tornei istituzionali, che ricercano sempre un modello di calcio fondato sul profitto. In questo contesto, che appunto ci sta un po' stretto, l'autotassazione non basta mai a coprire tutti i costi, e dato che nell'Ardita noi accogliamo tutte e tutti, e soprattutto chi non può permettersi di sostenere queste spese, cioè forse appunto se c'è una ragione per cui l'Ardita esiste è proprio questa, cioè di accogliere tutti e tutte quelle che vogliono divertirsi e fare questa cosa insieme, appunto diventa fondamentale avere il supporto di tutte le persone amiche, dei tifosi, delle tifose e dei sostenitori che appunto ci aiutano durante questi benefit. E infatti appunto ringraziamo ancora tantissimo tutte le persone che sono passate sabato, che erano davvero tante, e gli amici di Baronata che ci fanno sempre sentire a casa. Sì, tutto bello, tranne che tipo siete imbattibili al bancone al DJ set. Noi come Stella Rossa Rugby Milano e Rugby Sportiva, allora vi invitiamo alla sfida ben volentieri a sfondi più Ah, va lette. bene, ci Così siamo. facciamo sto gemellaggio. Siamo presenti. E invece volevamo anche provare a chiederti due parole sulle ultime vicissitudini e appunto due parole su Robin Hood, su come ha influito sul quartiere la repressione e come è andata la sentenza. Allora, diciamo che sul processo si potrebbero dire tantissime cose. Io mi limiterei a dire che l'accusa di associazione a delinquere, come sappiamo tutti, è totalmente ingiusta ed è un atto di repressione violenta, che di fatto mette un po' un punto di fine all'esperienza attiva del Comitato, avendo represso un po' tutte quelle spinte, tutte quelle energie vitali che stavano nascendo, che potevano nascere, potevano svilupparsi da questo progetto. Le condanne sono pesantissime e sono addirittura maggiorate rispetto a quelle chieste dall'accusa, e quindi questo diciamo che ci ricorda che si tratta di un processo punitivo, è un processo che vuole essere il precedente per tutti i futuri atti repressivi. Ci hanno espresso la loro solidarietà tantissime, tantissimi, sia come singoli, sia come associazioni, come realtà, come collettività, e la loro indignazione, la loro vicinanza appunto ci fa caldo al cuore in questo momento. Noi possiamo dire che continueremo a farci sentire, che non ci si ferma, che sicuramente non è finita, e questo era solo il primo appello. C'è una frase che dice un nostro caro ardito, un nostro amico, compagno e giocatore, che è in un mondo in cui l'ardita Giambellino vince, possono anche ribaltarsi le sentenze. Quindi io, ecco, questo sarebbe il mio commento alle situazioni, insomma, a questi tempi brutti del processo. Eh sì, dai, poi aspettiamo ancora la prima vittoria dell'Ardita, insomma, calcetto femminile, però un punto si è conquistato, no? Con la Santa, Sì, invece è la maschile a quanto pare, cioè due partite, la già sei maschile punti la quest'anno sta parte. vincendo, Sta andando un quindi po' tutto è meglio, sta possibile, andando un po' tutto è meglio. possibile. Poi dopo ne parliamo meglio nella rubrica di Sport Popolare. Niente, allora noi ti ringraziamo e però se hai voglia, se ci sono prossime iniziative in programma da parte dell'Ardita o comunque di quei compagni e quelle compagne che ancora provano ad organizzarsi in Giambellino, nonostante pesante la botta repressiva che è arrivata. Ricordiamo che le condanne in primo grado vanno da 1 anno e 7 fino a 5 anni e 5 mesi, e quindi se ci vuoi sia rilanciare iniziative ma anche invitarci alle prossime partite dell'Ardita, così veniamo a fare il terzo tempo. Sì, assolutamente. Allora, giovedì abbiamo un appuntamento importante perché la femminile scende in campo per il derby contro il Partizan Bonola e sarà alle 22 in Piazza Tirana, quindi diciamo noi non garantiamo mai sul risultato, non garantiamo nulla, ma veniteci a tifare perché ci divertiamo, perché ci sarà tutta l'Ardita al completo con tanto di curva, e quindi assolutamente un appuntamento da non mancare. E poi dal 12 al 18 dicembre saremo con un banchetto della squadra alla Fabbrica del Vapore all'interno di un evento di calcio, e quindi saremo lì sia per fare 4 chiacchiere e raccontare un po' chi siamo, cosa facciamo, sia appunto saremo lì con le nostre 9 magliette serigrafate bellissime, e quindi anche lì veniteci a trovare. E poi ci sarà la pausa invernale dei campionati, però sicuramente prima della fine dell'anno organizzeremo la ormai tradizionale tombolata dell'Ardita, quindi state connessi. E poi vabbè, abbiamo tante piccole cose in cantiere che speriamo di realizzare. Abbiamo parlato in assemblea della possibilità di organizzare delle giornate di sport popolare con i ragazzini e le ragazzine di Tirana, quindi insomma anche su questo io vi direi di seguire le nostre pagine per rimanere aggiornati. Perfetto, sicuramente noi della trasmissione rimarremo aggiornati perché diamo abbastanza spazio allo sport popolare, e poi soprattutto l'abbiamo rilanciato anche prima, lo rilanciamo anche ora con te, dato che l'Ardita sarà presente il 19 di marzo, ci sarà la giornata di sport popolare per Dax, dove speriamo ci sia l'Ardita al completo, e verrà anche dalla Francia probabilmente il Menil Montante, la squadra di calcio popolare di Parigi. Certo. Ok, va bene, dai, noi ti ringraziamo e ci sentiamo prossimamente. Grazie mille per la disponibilità. Grazie mille a voi. Okay, grazie. Perfetto. Ciao, ciao, ciao, buona giornata.